L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'Altro Pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Siamo molto lieti questa settimana di collegarci in diretta con Madrid, dove si tiene il Solar Decathlon, che è un concorso internazionale che nella sua versione, per così dire, originale si tiene a Washington, ma che ha ormai da qualche tempo, da qualche anno, anche una sua edizione europea. Il Solar Decathlon Europe è stato creato con un accordo firmato tra il Ministero dei Lavori Pubblici del governo spagnolo e il governo degli Stati Uniti, con l'obiettivo di organizzare una competizione di case solari e sostenibili in Europa. L'obiettivo è quello di contribuire alla conoscenza e alla diffusione di abitazioni solari e sostenibili. Il nome deriva, come si può intuire, dal fatto che le case presentate al concorso vengono sottoposte a 10 prove, prove di cui parleremo più diffusamente tra poco con la nostra ospite. La nostra ospite chi è? Chiara Tonelli, team leader di Made in Italy, gruppo composto da studenti e docenti di diverse facoltà di architettura ed economia dell'Università di Roma 3, disegno industriale della Sapienza, sempre a Roma, Libera Università di Bolzano e poi Fraunhofer. Benvenuta Chiara Tonelli. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, come è andata la qualificazione? Questa è la cosa che mi ha incuriosito. Come siete stati selezionati tra i tanti allora, progetti, immagino? Che siamo il primo team italiano che riesce a entrare in questa competizione. Tra l'altro, è vero, ha ragione. Che esiste ormai dal 2000 e niente, ogni anno ormai si alternano le edizioni tra gli Stati Uniti e la Spagna e tra poco l'anno prossimo entrerà pure la Cina, quindi con Pechino, perché la competizione si sta un po' distribuendo e regionalizzando nel mondo. Ma anche perché si diffonde la cultura del solare, fortunatamente. Si diffonde la cultura del solare, si diffonde la cultura della sostenibilità, speriamo, perché proprio questa edizione spagnola punta ad avere case sì autonome dal punto di vista energetico e quindi grazie all'energia solare che producono la loro l'elettricità che gli serve per funzionare, però soprattutto punta anche, c'è un premio proprio dedicato tra le 10 prove, punta a che tutti i materiali siano sostenibili, ovvero quindi abbiano provenienze naturali, bassi livelli di anidride carbonica inglobata nel loro processo di produzione e comunque pochissima inquinamento nel tutta la fase di produzione dei materiali, nella loro messa in uso e nella loro dismissione. Tra l'altro c'è anche un'attenzione al trasporto di questi materiali. Diciamo che nel nostro caso noi abbiamo avuto la fortuna di avere una sponsorizzazione da parte di Trenitalia e quindi parte della nostra casa è arrivata in treno e quindi abbiamo ridotto ulteriormente la CO2 emessa dal trasporto della nostra casa, quindi tutto quello che è arrivato qui è un pochino più sostenibile di quello che hanno portato gli altri con dei camion che vi assicuro vederli era abbastanza impressionante, camion enormi, lunghissimi e particolari perché spesso questi elementi di case vengono portati interi qui in queste competizioni. E questi paesi sono da cui provenivano questi enormi camion? Danimarca, Francia, Germania, Portogallo, Romania, beh quelli della Spagna hanno fatto poca strada, Ungheria, sì. Cina, Giappone, Egitto Brasile. E Brasile. Quindi voi insomma avete fatto una strada, un percorso medio-lungo ma l'avete fatto in treno, questo peserà sul giudizio finale? Ce lo auguriamo molto, ovviamente. Va bene, allora adesso veniamo un po' appunto più al vostro progetto, come è stato elaborato, come è cresciuto, siete in tantissimi a collaborare, quindi non sarà stato facile. Non è stato facile organizzare il gruppo, però diciamo l'idea è stata chiara sin dall'inizio perché sostanzialmente ogni anno viene fatta un call for proposal e quindi una richiesta di idee per partecipare a questo concorso. Noi siamo stati scelti su una proposta che era quella di una casa mediterranea in grado di far fronte bene alla situazione estiva oltre che a quella invernale. C'è da precisare che normalmente gli edifici sostenibili, quelli che conosciamo, famosi dei paesi nordici europei, che sono i più avanzati del mondo, sono edifici che si proteggono molto dal freddo invernale. Situazione abbastanza facile, in realtà chiunque di noi sa che mettendosi un cappotto pesante riesce a proteggersi dal freddo d'inverno, viceversa in un piazzale sotto il sole d'estate nessuno sa cosa fare se non riesce ad ombreggiarsi, a raffrescarsi con dell'acqua eccetera eccetera, quindi l'edificio fa un po' questa fine, con un buon cappotto resiste bene d'inverno però d'estate deve adottare delle strategie per riuscire a essere fresco e a raffrescarsi e non subire l'effetto della radiazione solare che diventa nocivo proprio nei nostri climi e alle nostre latitudini. Ma qui ciascuno... Quindi abbiamo pensato una casa che riprende un po' la tradizione mediterranea, una casa a patio, introversa, che guarda dentro se stessa, una casa che un po' bisogna scoprirla standoci fuori, si entra dentro da una rampa e è tutto chiuso, dall'esterno è tutto chiuso, tutto uguale, dentro si scopre un giardino e poi un'abitazione abbastanza ombreggiata e molto fresca, devo dire che già ora stiamo sperimentando, grazie a un sistema che fa ancora caldo, noi, quindi la lì, freschezza interna delle pareti. Fa ancora caldo lì a Madrid? Come? Fa ancora molto caldo a Madrid, diciamo. A Madrid fa molto molto caldo, non sta piovendo per niente, c'è un sole fortissimo, diciamo Madrid ha una forte escursione termica e di notte è più fresco, però siamo su 35 gradi di giorno tranquillamente. Quindi siete insomma in fase di potete testare bene insomma il risultato. Sì, funziona, il clima è adattivo. O meglio, l'avrete già testato in precedenza, quindi, adesso avete occasione di diciamo vedere se l'avete montata bene, ecco, come volevate. Sì, adesso stiamo montando, siamo in piena fase di assemblaggio della casa. E ormai è quasi tutto fatto, stanno finendo il campo fotovoltaico sui tetti e stiamo finendo le finiture interne, insomma sì, nel giro di 2 o 3 giorni dovremo avere tutto funzionante. Ma gli altri che si sono presentati, quindi questi che vengono dalla Danimarca o dalla Germania, invece loro hanno progetti più diciamo adatti al freddo, ai climi freddi, cioè non è che c'era un obiettivo specifico, ciascuno presenta il suo? No. Ciascuno presenta la sua tradizione, viene valutato, tra l'altro fuori dalle 10 prove ci sono C'è un premio extra che è quello, la migliore casa adatta ai climi caldi e la migliore casa adatta ai climi freddi. E quindi diciamo che poi le case vengono testate. È chiaro che noi siamo avvantaggiati perché ci troviamo in un contesto in cui la nostra casa lavora bene. Chi l'ha pensata più per il freddo ovviamente ha dei problemi oggi con il caldo, però questo fa parte delle scelte che ogni team ha fatto e ognuno era libero di portare avanti quella che riteneva più idonea. Perché i parametri con i quali verranno analizzati le case erano già noti, insomma, quindi non, oltre al fatto che si faceva a Madrid. Sì, si faceva a Madrid e si sapeva. Tanto è vero che un team ha rinunciato, quello norvegese, si è dovuto ritirare come altri team, ci sono 3 team che si sono ritirati perché la competizione è molto difficile da portare avanti, è molto difficile arrivare qui, è molto difficile trovare le risorse finanziarie per finanziare tutta questa operazione. E quindi 3 team si sono ritirati, tra cui quello norvegese che ha dato come motivazione il fatto che la casa era pensata per Trondheim e a Madrid avrebbe funzionato male. Ora, è evidente che questo commento non può essere creduto fino in fondo perché che fosse a Madrid si sapeva dall'inizio, insomma. Sì, quindi diciamo una mezza scusa, ecco, hanno trovato. Sì, insomma, sembrava comunque. Sembrava così. Sicuramente il problema è finanziario perché abbiamo avuto tutti molte difficoltà sotto questo profilo. Però voi ce l'avete fatta nonostante la grave crisi italiana, che è cosa nota, e quindi sì, che strumento avete usato italiano per convincerli? Che cosa ha convinto i vostri vari sponsor, che sono numerosi, insomma, poi a investire su questo progetto? Abbiamo sponsor che sono stati convinti, credo, da uno, dall'entusiasmo, due, dalla serietà dell'iniziativa, perché comunque è una ricerca che si porta avanti in 2 anni, fatta dall'università per trovare nuovi sistemi costruttivi e che comunque diventa una vetrina internazionale per tutti quelli che l'hanno sostenuta, perché in ogni caso ci troviamo qui con un contesto che è a 360 gradi, coinvolge tutto il mondo. Addirittura si aspettano 500.000 di visitatori in 3 fine settimana, quindi è una cosa che avrà una sua risonanza e ha una grande risonanza anche mediatica, per cui per gli sponsor è importante esserci e hanno, secondo me, non solo avuto una visibilità ma soprattutto hanno avuto la possibilità di confrontare il loro know-how con il know-how di altri e quindi di mettere a sistema quelle che sono le conoscenze di ciascuna azienda e non lasciarle relegate allo stabilimento in cui operano normalmente. Sicuramente. A proposito di sponsor, anche per vedere le immagini, insomma, c'è il sito madeinitaly.eu e ci sono tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto, compresi gli sponsor, che sono sponsor di settore, ovviamente, perché sono persone che lavorano, aziende che lavorano nel settore delle costruzioni, della sostenibilità e così via. Assolutamente sì, abbiamo fornitori di materiali, tecnici, abbiamo tante, poi ci sono pure quelli di arredi di interni che sono un po' più per tutti, ci sono vari sponsor, sono tutti visibili sulla pagina dedicata agli sponsor nel sito. Senta, della vostra squadra, quella che in gran parte lì immagino, fanno parte non solo ingegneri, architetti, che questo uno se l'aspetta, ma vedo anche economisti, comunicatori, come mai questa scelta così ampia, cosa vi è servita la loro esperienza, insomma, dell'economista per esempio? Allora, gli economisti, la casa è una casa vera, siccome già la costruiamo è un prototipo di un qualcosa che può essere diffuso e diffondibile, hanno fatto tutte le indagini di marketing di questa idea nel territorio italiano, quindi capire quanto il mercato fosse pronto ad accettare queste proposte e quanto, in che termini ne aveva bisogno, quindi abbiamo fatto dei test che sono andati online per capire come si orientava il mercato, loro poi hanno fatto le loro indagini anche con gli operatori di settore per verificare effettivamente la vera fattibilità del progetto dal punto punto di vista economico, che è importante perché queste case sono tutte commercializzabili poi. Cioè, da domani a proposito di queste ricerche, come si orienta questo mercato che è stato sondato in Italia? Ma il mercato è sicuramente sensibile a questo, è un mercato che piace, indubbiamente quando ci riferiamo all'utente singolo, quindi al cittadino, vorrebbe la casa isolata con il suo giardinetto e quindi quella che stiamo portando qui al Solar Decathlon è un po' il loro sogno, quindi quello della casa individuale. Viceversa il mercato degli operatori di settore, che siano amministratori pubblici, che siano invece costruttori, è quello dell'edificio pluripiano, che è quello che oggi l'urbanistica corrente a livello generale europeo, ma in particolare italiano, verso questa idea è orientata tutta questa urbanistica. Cioè noi oggi non ci possiamo più permettere di utilizzare un territorio extraurbano per fare case isolate, ma costruiamo edifici molto densi, quindi pluripiano, e molto concentrati all'interno della città, in maniera tale che tutti i servizi vengano accentrati e in maniera tale che anche il singolo appartamento funzioni bene dal punto di vista energetico, perché più si hanno appartamenti intorno più la casa guadagna, diciamo, dal punto di vista energetico. Questo lo sa benissimo chi vive all'ultimo piano, no? Abitando all'ultimo piano degli edifici si ha sempre caldo d'estate e freddo d'inverno e gli impianti funzionano molto di più. Ogni casa isolata funziona come un attico. E quindi più le case non sono isolate ma sono costruite in edifici grandi, meno consumano e quindi meglio stanno, perché si fanno forza una con l'altra. Allo stesso tempo i servizi, poi pensiamo al trasporto pubblico, pensiamo alla raccolta dell'immondizia, pensiamo a tutti quelli che sono i servizi pubblici, pensiamo anche alle stesse canalizzazioni di rete elettrica, rete di adduzione idriche, eccetera, eccetera, e fognarie. Ovviamente più gli edifici sono concentrati, più abbiamo un risparmio in questi servizi e più possiamo renderli efficaci. Cioè il trasporto pubblico deve trovare molte persone quando fa una fermata, non può trovare una singola villetta. Certo. E quindi c'è questa discrasia tra il mercato, diciamo, i sogni degli italiani e quello che viene consentito dall'uso del territorio da parte dei pubblici amministratori e dei costruttori. In realtà forse si potrebbero conciliare le due cose se l'edilizia delle nostre città fosse un po' più di qualità, un po' più attenta magari a questi aspetti che adesso gli italiani cominciano ad avere a cuore. Sì, però si possono fare, cioè questi edifici bisogna cominciare a costruirli comunque. Cioè infatti la cellula che noi portiamo qui è una cellula di un edificio pluripiano, non è una casetta isolata, no? E qui un po' la differenza tra l'aspettativa ideale dell'utente medio e quella dell'orientamento urbanistico che le nostre città prendono. È chiaro che oggi per l'Unione Europea, bisogna precisarlo, siamo obbligati a costruire questo tipo di edifici, quindi dobbiamo avere edifici che sono praticamente, si definiscono a quasi zero energia, ovvero che sono in grado di supplire a tutti i loro bisogni da loro stessi, insomma. Certo, quindi quanto è grande questa casetta che poi può essere in realtà è solo una cellula di una casa più alta? Allora, questa è 50 metri quadri, il concorso ci chiedeva di stare tra i 45 e i 62 metri quadri e noi abbiamo fatto una casa che in realtà questa che portiamo in concorso è per una coppia, ha un soggiorno, un bagno e una cucina chiudibili, cioè la cucina è indipendente, una camera da letto e poi ha due logge molto ombreggiate e un patio esterno. Il patio poi è divertente da dire perché comunque è corredato da piante che sono anch'esse, fanno parte della nostra comunicazione, perché sono piante biosensori definite, quindi piante in cui il colore dei fiori o diciamo la forma delle foglie cambia in funzione della quantità di inquinamento che c'è nell'ambiente in cui vivono. E quindi sono ma a volte sarebbe meglio non vederle. Se il livello di inquinamento circostante sta salendo perché cambiano, cioè lo rendono evidente. Certo, ma a volte appunto sarebbe meglio non saperlo, anche perché poi è difficile, no? Meglio, però poi si possono attivare degli espedienti perché la qualità dell'aria intorno nel nostro quartiere è migliore. Cioè il singolo che vive lì ne potrebbe fare in modo di evitare parte di questo inquinamento? Si può allertare l'amministrazione pubblica, in quel senso lì, si può allertare il vicinato, si possono attivare dei comportamenti migliori anche che sono di quelli di uso di un mezzo privato sempre minore, sempre più di un mezzo pubblico di trasporto, buttare la spazzatura in un certo modo differenziando, tutto questo contribuisce alla qualità dell'aria che respiriamo nel nostro quartiere. Diamo spazio a proposito di inquinamento dell'aria, le informazioni sul traffico e proseguiamo subito dopo. L'altro pianeta. E siamo di nuovo insieme per la seconda parte dell'Altro Pianeta, una puntata in cui stiamo parlando di Solar Decathlon Europe, che si svolgerà a Madrid, ma i lavori già fervono. Si tratta di una manifestazione che ha come obiettivo quello di contribuire alla conoscenza e alla diffusione delle abitazioni solari e sostenibili. Quest'anno, per la prima volta, c'è un team italiano. Chiara Tonelli è team leader di Made in Italy e qui con noi ci ha illustrato il progetto, quello che si sta facendo, ma abbiamo fatto anche altre considerazioni. Ora, così mi piacerebbe un po' che lei elencasse ai nostri ascoltatori quelli che sono stati i 5 punti, così come li vedo esposti sul vostro sito internet, che vi hanno un po' condotto nella preparazione e stesura di questo progetto. Allora, i 5 punti sono 5 punti, sì, guida. Diciamo, noi abbiamo ripreso quello che è uno slogan famoso di Le Corbusier, che faceva i 5 punti dell'architettura. Noi abbiamo fatto i 5 punti della nuova architettura sostenibile. Uno, ne parlavamo prima della pausa, era quello della densità, e quindi di un edificio che fa parte di una città che è molto costruita, che non lascia spazi vuoti, che non invade il territorio e la campagna circostanti. Poi abbiamo gli altri 4 punti, che sono, uno è veloce, perché la casa deve essere costruita molto rapidamente. Noi abbiamo solo 10 giorni per costruirla qui a Madrid e 5 per smontarla, quindi è una casa che si costruisce velocemente e rapidamente e che si trasporta anche in una maniera sostenibile e rapida, per questo noi abbiamo usato il treno. Poi abbiamo il tema di ecocosciente, quindi tutti i materiali che utilizziamo sono materiali sostenibili, sono materiali, si dice, a zero CO2 inglobata, a poca CO2 inglobata, quindi pochissima anidride carbonica è stata necessaria per realizzarli. Considerate che la maggior parte dei nostri materiali proviene dal legno, perché abbiamo il legno per le strutture, la lana di legno per l'isolamento, e sono tutti materiali che in realtà diventano degli accumulatori di anidride carbonica, cioè tutta l'anidride carbonica che hanno respirato durante la loro vita rimane lì finché non li bruceremo. E quindi il fatto di utilizzare il legno nelle costruzioni fa sì che abbiamo delle case che diventano accumulatori di CO2 che se la tengono lì dentro. Questo è un altro concetto importante. Dunque, quindi ecocosciente, rapida, densa, e poi abbiamo passiva, che è il concetto principale. Partiamo da attiva. Attiva e passiva. Attiva è una casa che produce l'energia di cui ha bisogno, quindi è una casa rivestita di fotovoltaico in cui il fotovoltaico entra come una finitura dell'edificio stesso. Quindi oggi diventa sempre più importante avere il fotovoltaico non giusto apposto a produrre energia, ma integrato nell'edificio quasi come un componente della finitura esterna, in maniera tale che non abbiamo più queste città in cui gli skyline vengono deturpati dalla presenza di elementi a shed che vanno a produrre energia. E quindi abbiamo un fotovoltaico che è stato messo sulle facciate e sulla copertura e fa proprio il rivestimento principale attivo della casa, questo elemento molto high tech che sta al di fuori. Poi l'altra parte attiva della casa è il suo cuore. All'interno il nucleo, che contiene il bagno, la cucina, contiene anche il locale tecnico con tutti gli impianti, che sono quelli che fanno il freddo e il caldo durante le stagioni e quando serve, e sono tutti vengono tutti trasportati in un blocco unico, grande quanto un container, in maniera tale che quando arriviamo posizioniamo il blocco e non ci sono altre connessioni da fare, perché tutto il cuore pulsante, dal punto di vista elettrico, dal punto di vista energetico, dal punto di vista anche di acqua e di adduzioni acqua, quindi cucina e bagno, è tutto concentrato lì dentro. Poi viene l'aspetto passivo, che è il quinto punto nostro e che è il punto più importante. Diciamo, noi possiamo fare gli edifici che producono più energia e il massimo di energia di cui abbiamo bisogno, però non basta, questo non basta, perché noi dobbiamo fare degli edifici che consumano poca energia, in maniera tale che quella che producono la possono dare in rete ad edifici che non sono in grado di prodursela. E in questo modo quindi la nostra casa è estremamente capace di essere passiva, cioè di sfruttare l'energia solare, il vento, i differenziali termici che si creano tra le pareti nord e sud per raffrescarsi o riscaldarsi. E per fare questo abbiamo reinterpretato la tradizione mediterranea, che è fatta di case di pietra, di case di mattoni, realizzando un sistema che qui mentre lo costruiamo tutti vengono a vederlo e sono incantati e fanno le foto. In realtà noi abbiamo fatto dei tubi di alluminio riciclati che sono stati riempiti di sabbia umida, e questa sabbia la possiamo trasportare, non come un muro di pietra che era difficile da trasportare. Non utilizziamo la sabbia è un materiale insieme alla pietra che non si riproduce, e quindi il fatto di utilizzarla in un edificio può comportare dei problemi dal punto di vista delle cave, che prima o poi terminano e devono essere chiuse. Quindi noi abbiamo preso la sabbia e l'abbiamo lasciata sfusa, non l'abbiamo mischiata con le malte come si fa nel cemento, e in questo modo abbiamo messo in dei contenitori che poi un domani possono essere svuotati, la sabbia può essere riutilizzata. Quindi però si smonta tutto. Stiamo verificandolo anche qui, avevamo già fatto dei test in camera climatica in Italia. La sabbia è in grado di accumulare tutto il calore in eccesso che c'è nell'ambiente e quindi d'estate è comodissima perché ci fa stare fresca la casa. E poi di notte, aprendo gli sportelli e le finestre, gli sportelli di aerazione e le finestre, riusciamo ad areare e a portare via il calore che cedono durante la notte. Viceversa, d'inverno, il calore dentro la casa, che si accumula grazie alle grandi vetrate che prendono la radiazione solare e la fanno entrare, quindi quel calore che si genera viene accumulato dalla sabbia e viene restituito poi di notte quando gli impianti sono spenti. Quindi in questo modo abbiamo realizzato quel funzionamento passivo tipico delle case che tutti noi conosciamo del sud Italia, con cui entriamo di giorno e abbiamo fresco, no? Mm-hmm. Si pensi alle chiese romaniche che sono freschissime, molto buie, molto, molto fresche di giorno e che poi però d'inverno sono in grado comunque di rilasciare attraverso quello che hanno accumulato nella loro massa il calore e quindi farci stare bene anche d'inverno. Anche d'inverno. E sembra che stia funzionando. Speriamo che i test poi durante il contest, durante le prove, funzioneranno. Beh, certo. Poi cosa fanno? Vi mettono dei rilevatori? Sì, metteranno dei sensori di temperatura. Va precisato che queste case sono un po' delle macchine, un po' delle Ferrari, no? Come sappiamo che, non so, se io compro una macchina normale e poi a certe prestazioni la Ferrari le ha molto maggiorate, questa è la stessa situazione. Cioè queste case hanno delle prestazioni maggiorate rispetto a quello che farà, che servirà poi all'utente normale per, nella sua propria casa. Queste case hanno sempre la temperatura a 24 gradi centigradi, che per noi italiani è troppo d'inverno e è troppo poco d'estate, insomma, no? Noi d'estate possiamo stare anche a 26, 27 e stiamo bene, e d'inverno stiamo a 20, 21 e stiamo bene. Qui 24 è sempre, per cui è chiaro che tutti gli impianti, tutto il funzionamento deve essere un pochino spinto di più. E loro testano la temperatura, l'umidità, la quantità di CO2 nell'aria, e in maniera tale da noi dobbiamo garantire dei parametri e non scostarci da questi parametri, perché altrimenti prendiamo punti di penalty e diminuiamo il nostro score, il nostro punteggio. Noi il massimo punteggio sono 1000 punti, circa 100 per ogni prova, e chi si avvicina di più a 1000 vince. Avete già potuto dare un'occhiata agli altri prototipi oppure è tutto segreto? Sì, la cosa che mi ha stupito di più è che si vede tanto legno di rivestimento, ma poi dentro sono tutti elementi di acciaio, addirittura di cemento, che sono due materiali estremamente inquinanti, estremamente ad alto contenuto di energia inglobata, cioè serve tanta energia per fare l'acciaio, molta di più che per fare il legno ovviamente e anche per trasportarlo, e quindi questo è stato un po' stupefacente vedere, non so, edifici di legno fondati su elementi di acciaio grandissimi, piastre di acciaio enormi, grandi quanto tutto il lotto che è 20 per 20 metri o cose di questo tipo. Quindi questo mi ha un po' lasciato. Vabbè, questo magari vi dà qualche chance in più. Spero. Che venga tenuto presente, certo. Sì, che rappresenti un punto in nostro favore, almeno nella prova di sostenibilità, quella che valuta la tipologia dei materiali e come sono stati utilizzati. Ho un'ultima domanda, pochi secondi, le chiedo soltanto, sì. Poiché questo poi può essere appunto, è un prototipo, ma si pensa poi dopo a una commercializzazione, i costi di questa realizzazione, quali possono essere indicativamente? Allora, abbiamo tantissime destinazioni per questo, perché se lo pensiamo come multipiano può essere qualsiasi città, se lo pensiamo come cellule piccole possono andare a costituire un albergo diffuso, un albergo, un villaggio turistico, che sono tutte cose, edifici che non impattano, sì, sul territorio, quindi sull'ambiente, per cui li possiamo inserire anche in luoghi molto preservati perché comunque non hanno fondazioni, non sono impattanti e possono essere un domani smontati senza difficoltà. E abbiamo pensato anche, grazie alla rapidità di costruzione, per una semplificando questi elementi, di utilizzarli per i post terremoti oppure per esempio la prima accoglienza di tutti i rifugiati che arrivano dalle sponde sud del Mediterraneo. Certo, no, io pensavo ai costi proprio da un punto di vista del denaro. I costi sono 1.400 euro a metro quadrato, quindi siamo un pochino più alti di una casa, per esempio di un alloggio sociale, di social housing, sì, però siamo comunque con nei limiti di quello che è un costo standard per l'edilizia, considerando però che la devo fermare, uno l'attacca alla spina, cioè non c'ha la spina, e certo, non ha infatti non ha quei costi lì. Grazie, sì, a Chiara Tonelli in collegamento con noi da Madrid, la ritroviamo per sapere com'è andata Solar Decathlon. Adesso ritroviamo la nostra rubrica storica articolo 9 con Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, siamo ritornati con la trasmissione trasmissione Articolo 9 con questo spazio dedicato alla cultura del paesaggio, alla difesa del nostro bellissimo paese. C'è un'iniziativa veramente straordinaria che viene da Bergamo, una città a me particolarmente cara. Io mi chiamo Carminati ed ho un cognome tipicamente bergamasco, e nel cuore di questa città è successa una cosa stranissima. Fino al 16 di settembre la Piazza Vecchia, cioè il cuore antico della città alta, è completamente piacevolmente stravolta. Da che cosa? Da un'invasione di verde. Che cosa è successo? Ce lo racconta Maurizio Vegini, che è un paesaggista ed è il presidente dell'associazione Archetipos. Buongiorno, dottor Vegini. Buongiorno a lei e ecco, agli ascoltatori. Intanto le chiedo, prima domanda, che cos'è l'associazione Archetipos? L'associazione Archetipos è un'associazione culturale fatta da una serie di soci, da 8 soci, che sono, alcuni sono del settore e alcuni sono fuori settore, tipo avvocati, commercialisti. 8 amici che si sono trovati e hanno deciso di organizzare questa manifestazione. Logicamente il filo conduttore tra gli 8 soci è la passione per il verde. Io prima dicevo che il cuore della città, cioè la Piazza Vecchia in Città Alta, è piacevolmente stravolta dal verde. Di solito è una meravigliosa piazza libera su un lastricato con i bellissimi palazzi e i monumenti che la circondano, ma se veniamo in questi giorni la troviamo molto diversa. Come la troviamo? La troviamo... troviamo tutta una piazza verde, cioè nel senso che tutta abbiamo fatto un lavoro ciclopico quest'anno rispetto all'anno scorso, l'abbiamo fatta molto più ampia. Troverete bordure di perenni, salotti dove ci si può sedere e degustare liberamente, però mangiare, bere o giocare a carte, un orto biologico meraviglioso, sedute, piante, pergolati in legno, di castagno. Un parco e un orto piacevolissimo nel cuore di una città storica. Oltre a queste bellissime cose che ci possono vedere, so che avete la possibilità di far incontrare chiunque venga, secondo un programma di incontri, appunto, tutti i grandi maestri del paesaggio, alcuni dei grandi maestri paesaggio a livello internazionale. Chi avete invitato? Hanno parlato i paesaggisti più famosi al mondo. Faccio un nome per tutti, che forse è il più popolare. Peter Walker, che ha fatto il progetto a New York del Memorial, questo parco di dove c'erano le Torri Gemelle, è un americano, è uno dei 4-5 paesaggisti famosi al mondo. Poi abbiamo John Brooks, inglese, che è un paesaggista ormai un po' anziano, però ha fatto tantissime attività, ha lavorato in tutto il mondo. Clee West, che ha vinto il Chelsea Flower Show per 2 anni, sia quest'anno che l'anno scorso. Noi abbiamo scelto tutte le location migliori per fare questa, oltre a Piazza Vecchia, che l'abbiamo trasformata, tutta la parte convegnistica è stata fatta nei palazzi più belli, cioè Palazzo Moroni, la certo. Sala... dei giuristici, quindi tutte le perle di Bergamo Alto sono state utilizzate per fare attività di divulgazione. Ho visto anche che voi vi proiettate naturalmente all'orizzonte del mondo, ma tenete conto tantissimo dell'educazione in qualche modo anche dei cittadini di Bergamo, cioè il verde è una cosa che il cittadino dovrebbe considerare come una cosa importantissima per la propria vita proprio in città, e avete anche lì escogitato un'iniziativa che mi sembra si chiama Green Crossing. Ecco, mi spieghi brevemente di che cosa si tratta. Il Green Crossing abbiamo copiato, diciamolo francamente, è bravo. Quella del Book Crossing del Festival di Mantova. Noi l'abbiamo creato analogamente per le piante, cioè queste piante sono state date in affido a delle persone, le dovevano lasciare in un luogo pubblico. Questo ognuno poteva prenderle, riposizionarle, comunicare tramite Facebook dove le aveva riposizionate, e poi dopo un mese che le piante hanno girato Bergamo sono state raccolte con una festa, anche con della musica, e le abbiamo piantate all'ingresso dell'orto botanico di Bergamo. Insomma, ogni cittadino può gestire, naturalmente coordinato da voi, un po' di verde della propria città, piazzandolo dove ritiene che ne manchi un po', quindi dando un segnale molto interessante di cura e di attenzione alla propria città. Dopo la Piazza Vecchia, sul fondo, in fianco alla Cappella Corleoni, nella sala Picta, la diocesi ci ha concesso questa sala meravigliosa che è l'aula Picta. Ospitiamo anche fino al 16 settembre, ospitiamo la mostra fotografica più famosa al mondo, che ha sede a Londra, è un concorso di fotografia a livello mondiale, partecipano 30, in genere quest'anno hanno partecipato 30 paesi e i vincitori e le foto migliori sono presenti a Bergamo ed è un'emozione vederle perché sono di qualità, sono le foto migliori al mondo, penso, di fotografia di giardini. Questa città storica è ricchissima di iniziative, proprio nel suo cuore, verde, cultura, cultura civica nel senso più alto e interessante del termine. Io la ringrazio molto, dottor Vegini, di questa sua testimonianza. Grazie a voi. E auguro naturalmente che abbia un grandissimo successo come merita. Io colgo l'occasione per ringraziare anche Laura Faggini in redazione, Carmelo Lauricella in regia e a tutti gli ascoltatori un cordiale saluto. E salutiamo anche Marco Carminati. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.